Palla Spicchi con Carlo Genta. Amici del basket, buon pomeriggio. Flavio Suardi, buon pomeriggio. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti. Gigi Borghi in redazione, Fabio Cantadoni in regia. Direi che l'eurosettimana del basket è andata un po' peggio rispetto a quella del calcio, che tutto sommato ieri è stata rimessa in piedi anche da quelle della Coppa UEFA. Quella del basket non benissimo, Flavio? No, assolutamente. Diciamo che se poteva essere preventivabile una battuta d'arresto, per esempio, di Avellino contro l'Olympiakos e anche ovviamente dell'Armani in casa del Zesca, è chiaro che la sconfitta della Lottomatica sul campo dell'Alba Berlino ce l'aspettavamo un po' in pochi. Bene la Montepaschi, magari non benissimo perché ci si aspettava qualcosa di più anche dalla squadra di Pianigiani, però per ora chiudiamo con una vittoria e tre sconfitte questa prima giornata. Al primo giro, una vittoria e tre sconfitte, di cui quella di appunto di Roma tutta da analizzare, quella di Milano pesantissima, non è mai stata in gara. È chiaro che il Zesca è quanto di peggio ti possa capitare oggi su un campo di pallacanestro europea. Dan Peterson, buon pomeriggio, ciao coach. Ciao ragazzi, ciao amici sportivi, buon pomeriggio a tutti. Non benissimo, dicevamo, no, siamo alle solite, uno vittoria e tre sconfitte, giudichiamo tutte le squadre italiane in questo senso qua. Sì, speriamo che la rotta si inverta. Io direi che le potenzialità ci sono, anche se insomma Roma mi dà da pensare, è un divaga, la prima in casa con Caserta in campionato, vinta supplementare con un gran mazzo a dir la verità, poi a Valanga sul campo della Fortitudo e ieri a Berlino messa sotto in maniera impietosa, direi. Ci sta anche la sconfitta, però Roma ha fatto una gran fatica. Bisogna anche mettere in prospettiva la vittoria contro la Fortitudo, perché adesso viene fuori la storia che i loro americani erano fuori in discoteca fino alle ore piccole e hanno giocato malissimo, quindi non si sa come benissimo giudicare la vittoria schiacciante della Roma a Bologna contro la Fortitudo. Quindi forse bisogna anche rimettere un po' in sesta quella lì, perché tre partite stanno facendo fatica ancora, però squadra con tante facce nuove, ovviamente ci vorrà un attimo di tempo. Questa storia degli americani in discoteca, coach, l'abbiamo detto mille volte, si sceglie forse in questo caso prima l'uomo, il ragazzo e poi il giocatore. Se guardi solo il talento di giocatori di talento in giro ce ne sono tantissimi. Poi questo vuol dire che non hanno capito, c'è proprio la vita. Racconto due brevi cose. Innanzitutto a Bologna, se tu vai in una discoteca, è matematico che la metà sono di Virtusino e la metà sono Fortitudo. Cioè, prima o poi c'è uno della Fortitudo, tifoso, ti vede, la parola passa, ma in un secondo. Qui a Milano, Milano 4 milioni di persone, io avevo Cedric Henderson, 85-86, ragazzo 2,6 metri di colore, eccetera. E allora vedo allenamento lui un giorno, Cedric, cosa facevi lì ieri sera a Nepenthe alle 3 del mattino? Mi avevo guardato per dire, come sapevi? Cedric, sei un ragazzo di colore Milano, 2,6 metri, e ci sono tutti i nostri... Non è che abbia detective, mi chiamano loro, ok? Quindi sì, è successo a Bologna così. Però a te non è successo tanto spesso, anche perché una delle grandi caratteristiche della tua Milano era quella di saper scegliere persone giuste. Certo, quindi... E dicono che la Fortitudo adesso è molto arrabbiata per questa cosa qua, possono anche cambiare questi giocatori americani, cioè Woods e Forte sono, cioè, non so come dire, ma dicono che possono partire da oggi a domani, e Forte è uno che fa 26 punti a partita, quindi non è un bel quadro. Senti, tornando alla Lottomatica, quello che si diceva inizio stagione è che ha un pacchetto esterni molto, molto interessante, affascinante, probabilmente anche da allenare dal punto di vista di Repesa, però mi pare di capire che al di là del fatto che l'Alba abbia praticamente devastato Roma a rimbalzo, ieri siano proprio gli esterni a essere mancati, se consideriamo il fatto che da Tome è stato forse il migliore in campo. Poi io ho una grande fiducia, per esempio, della Fuente, questa gente qua mi dà una certa fiducia. Io vedevo in Roma, e penso anche voi a sentire voi parlare, mi dava la sensazione di essere squadra solida, il primo sfidante di Siena. Adesso dopo la partita ieri voglio anche aspettare un attimo prima di ripetermi su questo pronostico, ma come avete detto voi, Siena ha controllato la partita che ha vinto, però non è esattamente dominato. Dopo due partite di campionato si può dire pochino, secondo me, però a guardare il roster delle squadre e a guardare anche tutto sommato la classifica non mi sembra che ci sia spazio quest'anno per grandi rivoluzioni. No. Basta guardare lassù, ci sono Teramo è l'unica, l'unica imbucata tra le squadre favorite. Tu invece vedi delle sorprese o credi che sarà l'anno della restaurazione dopo quella della, della rivoluzione? Well, innanzitutto, cioè, ho come sempre i miei pronostici. Io ho pronosticato Siena Scudetto, ma non con un record di 31 vinte, 3 perse. Ovviamente quest'anno ci sono 30 partite, non ci può essere, però non 27-3 o 26-4. Cioè, io pensavo quest'anno perdono 6, 7, 8 partite, ok? Cioè questa è stata la mia idea, poi vincono lo scudetto, ah, perché la squadra è molto più compatta, molto più completa, sempre insieme, stesso nucleo, il terzo anno con Pianigiani, Minucci è lì una vita, certi giocatori il terzo anno, quindi hanno grande continuità qui, che è un segreto nello sport. Però io ero molto fiducioso, per esempio su Treviso rinata, Roma abbiamo detto, vedevo Pesaro, poi Pesaro ha perso la prima partita in casa, cioè era fiducioso dei due bolognesi e Armani Jeans Milano. Io pensavo queste squadre possono in casa almeno dar fastidio a Siena, questa è stata la mia valutazione perché li vedevo con questa possibilità, con un po' di programmazione, la Fortitudo ha fatto un mercato, la Virtus ha preso Boykins, Treviso dopo il vicissitudini hanno fatto dei cambi, secondo anno di Mahmoud, cioè vedevo tante cose che mi, secondo anno Sacripanti a Pesaro, tante cose che mi davano fiducia per dire avremo un campionato più interessante, invece forse no. Coach, io volevo una tua valutazione sulle prime partite di Finlay, Morris Finlay a Siena, preso al posto di Lievski che forse l'anno scorso non garantiva quel cambio di ritmo a McIntyre, non mi pare che per ora questa scelta sia più di tanto, si stia rivelando più di tanto azzeccata, non so come la vedi tu. Non è un playmaker Finlay. No, è un realizzatore, però in tutto questo, cioè, voglio dare l'esempio di McIntyre, che con lui hanno detto McIntyre playmaker, io che ho detto ma insomma mi sembra più tiratore da tre che playmaker, invece McIntyre, perché tutti i grandi tiratori sono anche grandi passatori se vogliono e se si mettono a fare, e anche all'inizio ricordiamo che McIntyre quando è andato a Siena all'inizio anche lui ha fatto un pochettino di fatica per trovare, diciamo, il suo indirizzo, il suo ruolo, la sua parte del meccanismo, e forse Finlay avrà la stessa cosa, che sia un talento, un realizzatore non ci sono dubbi, è chiaro che anche lui avrà forse bisogno di un altro mese per inserirsi perfettamente. Poi è una questione di minutaggio, non avrà la squadra in mano, ma adattarsi anche al ruolo di cambio, adattarsi anche a pochi minuti, adattarsi anche a fare lo specialista in certe situazioni. Cos, prima di chiudere con l'NBA volevo chiederti una cosa, visto che più tardi parleremo con Eugenio Dalmason che è l'allenatore di Venezia, tu hai partecipato e stai partecipando alla resurrezione della Reier come consulente. Sì, sono consulente lì, ma voglio anche dare le cose nelle giuste dimensioni, cioè loro erano già ben indirizzati l'anno scorso quando io sono arrivato per fare consulenza, poi io non sono uno che vada a imporsi alla gente, io sono lì in senso collaborativo e Dalmason ha fatto un capolavoro l'anno scorso, anche il suo staff tecnico, i suoi due vice allenatori Alberto Bilio e Francesco Benedetti hanno fatto un buon lavoro con lui, la società, general manager Federico Caterin. Io cerco di essere disponibile, se la mia esperienza, conoscenza può dare una mano, sono disponibile tutto lì, ma non sono lì per fare dittatore. Ma per arrivare preparati al colloquio con Dalmason più tardi, che progetto è questo di Venezia? Dove si vuole molto arrivare? Molto serio, molto. C'è il presidente e proprietario Luigi Brugnaro, che è presidente dell'Umana, che ha lavoro temporaneo, che è anche sponsor della squadra, cioè altre cose, quindi è una cosa di grande serietà. Cioè, quindi lui è serio e loro sono seri. Quindi un progetto serio con radici solide che affondano in laguna, e onestamente di Venezia ne avevamo bisogno. So che Flavio Suardi vuole cominciare a parlare di NBA per chiudere con Coach Peterson. Stagione NBA che è dietro l'angolo, sta per partire l'assalto ai Boston Celtics, e siamo curiosi, no Flavio, di sapere cosa si dice in America. Io sono curioso di sapere come Coach vede i miei Lakers. Io non mi sono mai nascosto, sono un tifoso dei Lakers fin da bambino, e quindi volevo capire se secondo lui quest'anno si poteva un po' ripetere la stagione dell'anno scorso. Well, loro saranno potenzialmente sono più forti, Gasol tutto l'anno, Bynum ritornato, quindi le possibilità ce ne sono. Bynum tornato, Gasol tutto l'anno, le possibilità ce ne sono, io voto ancora Celtics. Well, I pronostici sono o per i Lakers o per i Boston Celtics, quindi tutte le due sono considerate. Io ho preso Sports Illustrated sull'internet oggi e dalla parte est Boston, parte est ovest Los Angeles, c'era detto finale fra loro due, quindi il pronostico rimane uguale per anche con diciamo la clausola che dice senza James Posey forse i Boston Celtics sono leggermente in difficoltà, perché lui era veramente un elemento importante. Per chiudere le cose, noi aspettiamo sempre i nostri ragazzi Bellinelli e Bargnani da subito, Gallinari speriamo presto. Come valuti tutta questa polemica che poi non c'è stata, perché poi D'Antoni l'ha spenta immediatamente su Gallinari nella Lega di Sviluppo? Anche io, la gente ha cercato di controllare subito, tutti erano negati dalla cosa, dove è nata la storia non lo so, è apparso improvvisamente e poi tutti hanno detto che non c'è niente. Poi magari, lo so, è stata una mossa per dire Danilo guarire in fretta, ok? Non so come dire, però Bargnani sembra più solido, parte dalla panchina quest'anno dietro Bosch e Jermaine O'Neal, e meno pressione su di lui, forse un bene. Bellinelli alti e bassi con Golden State, qualche partita 22, qualche partita 2, vorrei vedere lui fare 10 sempre, tanto per dire. Gallinari è questione schiena, deve guarire, e se lo guarisce loro stanno contando su di lui. Certo, grazie coach, sentiamo venerdì prossimo. Ciao ragazzi, amici sportivi, ciao a tutti. Ciao coach Peterson, dunque panoramica completa, poi dopo la viabilità cominciamo ad affrontare i vari temi. Avremo subito un ospite con cui affronteremo il tema chi meglio di lui, chi meglio del presidente della Lega, Francesco Corrado, può inquadrare il tema futuro di questi campionati. Poi torneremo sulla settimana europea e chiuderemo, abbiamo già anticipato, con la pagina sulla Lega 2 con Venezia, insomma, grande ritorno nella stagione del ritorno, perché c'è anche Brindisi, ad esempio, piazza storica con entusiasmo pazzesco, che è tornata in Lega 2. Palla spicchi. Eccoci tornati, e come annunciato è l'ora di qualche interpretazione autentica sul futuro della pallacanestro italiana. A darla non può che essere il presidente della Lega Basket, Francesco Corrado. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Grazie per essere con noi. Si è arrivati a 16 squadre per via traumatica, come ben sappiamo, semmai poi sul discorso torniamo, ma mi preme di capire se è questo il format definitivo per i campionati dei prossimi anni. Ma io innanzitutto, per quanto riguarda l'esserci arrivato a 16 squadre, sono amareggiato che ci siamo arrivati nella maniera che ci siamo arrivati. Ho già detto che pensavo che forse avevamo sbagliato, invece purtroppo le cose si sono avverate. Io penso che non ci sia ritorno a 18 squadre. Penso che il campionato andrà avanti così e anche in futuro, anche perché è pacifico che ci sarà più competizione, ci sarà più rischio di retrocessione, però è bene che così rimanga in questo momento. Ora poi fare previsioni sul futuro diventa estremamente difficile. Ma a lei piace il campionato a 16 squadre? A me sì, per esempio, personalmente lo ritengo la dimensione giusta della nostra pallacanestro. Ma io concordo con lei su questo argomento, anche perché 16 squadre dà la possibilità anche di affrontare alle squadre che fanno l'Eurolega, quelli che fanno l'Ulib, più tranquillità, senza essere l'accavallamento continuo di tutte queste partite. E in secondo luogo perché a questo punto è necessario che ci siano delle squadre che possono competere e competere sempre, perché in qualunque momento una partita vinta, una partita persa può cambiare il futuro e la conclusione dell'anno. Si migliora il prodotto, anche se non mi piace come parola, però è la realtà, ecco. Il prodotto basket è migliore in questo modo, la qualità è più elevata. Esatto, l'unica cosa sulla quale io sono in dubbio è che continuo a leggere che tutti vogliono, ci devono essere gli italiani. Io sono d'accordo, perché nel passato, quando io 40 anni fa entrai a Cantù, gli italiani, Cantù era maestra nel trovare gli italiani, e oggi purtroppo abbiamo delle grosse difficoltà, e non è un programma che possiamo fare in una sola giornata, ci dobbiamo arrivare gradatamente. Io sono fermamente convinto che le squadre di A1, le squadre professionistiche, devono produrre giocatori anche per la nazionale. Però purtroppo le squadre, in particolar modo essendo a 16, sono società di capitali e devono badare anche ai bilanci. Io mi auguro che questa problematica si risolva abbastanza in fretta, però non è certo risolvibile con decreto. Senta Presidente, però ammetterà che quello dei giocatori italiani è comunque un problema molto sentito nella pallacanestro italiana, tant'è che i risultati della nazionale negli ultimi anni stanno in qualche modo probabilmente risentendo del fatto che il giocatore italiano in questo periodo non è che abbia granché spazio nel nostro campionato. Lei è d'accordo con questa col fatto che i risultati della nazionale vadano di pari passo con questo scarso impiego in campionato? Ma poi Flavio, si tratta di ribadire anche una posizione che abbiamo più volte espresso, cioè sarà brutale, però forse a livello di Serie A l'idea è quella della libera circolazione dei lavoratori comunitari come la legge prevede, e poi facciamo tutti il tifo per gli italiani perché si possano scegliere gli italiani a prezzo di mercato perché sono più bravi dei comunitari, questo sì. Guardi, lei ha centrato il problema. Il discorso è molto semplice. Oggi come oggi, proprio per quanto riguarda quello che è il rapporto stranieri, comunitari, italiani, è diventata anche una questione di prezzo. Ma indipendentemente da questo, le società professionisti devono aiutare a far diventare migliori i giocatori italiani che sono venuti dalla base. Certo. Perché qualunque squadra di Serie A può produrre uno o due giocatori per la nazionale, ma purtroppo questi giocatori devono venire dalla base. Poche società in Italia hanno dei vivai come esistevano negli certo. anni passati. Di livello. Lei fa l'esempio di Cantù che ha prodotto da Marzorati a Bosa, a Riva, Innocentina, Cattini, Recalcati, possiamo andare avanti, possiamo andare avanti a fare la lista. Non mi risulta che oggi Cantù stia lavorando in profondità sul settore giovanile. Guardi, io le devo dire, non come presidente di Lega, ma prima di lasciare Cantù, abbiamo fatto il progetto domenica. Io sono riuscito a far fare una collaborazione tra il progetto giovani della Pallacanestro Cantù con Nizza Monferrato e andiamo a inaugurare domenica questo, perché dobbiamo uscire. Una volta si usciva, non era tanto era la ricerca del giocatore italiano, ma la ricerca che si faceva in tutta Italia. Oggi non avviene più questo, bisogna ricominciare a farlo, perché in Brianza, ad esempio, Siena ha dei giocatori giovani italiani bravissimi, però vediamo che a Siena non giocano perché? Perché Siena ha delle mire. Ieri sera io ho visto da Tom, mi ha impressionato, e sono fermamente convinto che se ci sono dei giocatori e sono bravi, emergono dappertutto. Però dobbiamo nello stesso tempo creare una struttura alla base che possa produrre dei giocatori da portare a livello italiano e da poterli far giocare. Certo. Infatti il progetto che noi avevamo fatto, che prevedeva e prevede questo versamento di 10.000 euro per ogni giocatore di passaporto o americano, era fatto proprio perché venissero premiate le squadre che facevano giocare più italiani durante il campionato. Sì, sì, non c'è dubbio su questo. Italiani che però devono essere concorrenziali a livelli di mercato. Anche perché onestamente il campionato a 16 squadre comporta di avere dei roster che indubbiamente devono essere molto più forti di quelli che sono stati con un campionato a 18 squadre. Sì, sì, sì, no, su questo non c'è dubbio, ma è anche un bene che sia così. Presidente, le chiedo un'altra cosa, un'altra interpretazione autentica. Oggi come oggi mi può garantire che non vedremo altri casi in Napoli e Capodorlando, quantomeno a stretto giro di posta? Guardi, io questo glielo posso dire come presidente di Lega. Per quanto riguarda i controlli che competono alla Lega, perché forse qui si confonde Lega Comtech, i controlli che competono alla Lega sono stati da me fatti. Io ho esaminato tutti i bilanci e tutte le squadre che sono state iscritte al campionato, ivi compreso Napoli e Capodorlando, rispettavano i parametri previsti dalla Lega, capisce? Sì. Ci sono degli ulteriori controlli che noi non possiamo assolutamente fare, perché non ci competono, per esempio andare a verificare negli uffici, tutte queste cose. Ora, io per quanto riguarda l'iscrizione al campionato di quest'anno, i parametri sono tutti rispettati. Io però non posso assolutamente garantire che tutto quello che mi è stato dato, anche perché io avrei bisogno allora di andare a, non a vedere i bilanci, ma avrei bisogno di andare nelle società a controllare, e questo non mi è possibile. Certo. Io comunque, per quanto riguarda l'iscrizione al campionato, hanno rispettato tutti i parametri. Io sto, anche perché qualcuno ha lanciato delle idee, diciamo, chiamiamole idee, su delle società, io chiederò alla Lega che mi autorizzi a fare la verifica in tutte le società. Quindi lei ha intenzione di chiedere questo? Proprio per dare chiarezza, e questo è certo, come l'ho fatto in passato, lo faccio anche oggi, lo farò anche oggi, che se dovessi rilevare qualche cosa che non funziona o non è nel rispetto delle regole previste dalla Lega, prenderemo i provvedimenti. Benissimo. Grazie Presidente, buon lavoro. Ecco, grazie a lei, arrivederci. Grazie Francesco Corrado, Presidente della Lega Basket. Adesso abbiamo, prima di fermarci, un minuto ancora, e un ascoltatore, lo sentiamo subito, Gora da Novara, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, io volevo dire, approfittare, visto che state parlando per il basket italiano, no? Sì. Prendere spunto dagli altri paesi europei, no? Vedo che ci sono tantissimi giocatori americani che non hanno mai giocato nella nazionale americana, cerco di non naturalizzarli, come hanno fatto tipo la Bulgaria, che ha dato un sacco di problemi all'Italia, come ha fatto la Francia, come ha fatto tantissimi paesi. Sì, qualche volta l'abbiamo fatto, qualche volta l'abbiamo fatto anche noi. Ci abbiamo anche provato, nel senso che per esempio Storru, che è un giocatore che potrebbe giocare nella nazionale italiana, il problema è che quando viene convocato non ci va, e questo è uno. Rocca è un giocatore che ha giocato in nazionale, quando è stato chiamato era infortunato. Dante Calabria ha giocato in nazionale, Dante Calabria non è più un giocatore da nazionale, quindi i nostri naturalizzati li abbiamo anche noi. Mike D'Antoni ha giocato in nazionale, cioè, Mike Sylvester ancora Mike indietro, Sylvester ancora prima. È un discorso comunque attuale questo, perché nell'epoca, quest'estate, quando le prendevamo da tutti, andavamo a vedere, diciamo, ma a questo punto le nazionali sono una sorta di squadra di club, c'è anche questo cavillo, questa via dell'americano, sfruttiamola anche noi. Sì, vera forse fino a un certo punto. Per esempio il CSKA di Mosca, se vogliamo fare un esempio, usa Holden, che è un americano, che più americano non si può, da giocatore russo, perché ha ottenuto la cittadinanza, e quindi anche lì che c'è una regola con i russi in campo, Holden gioca da russo in campo. Sbaglia se ha toccato il resto decisivo alla finale degli europei. Non sbagli. un americano al Cremlino. Palla spicchi. Torniamo per riannodare un po' di fili grazie al nostro prossimo ospite. Abbiamo sentito, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Coach Peterson sull'Euro settimana non brillante. Francesco Corrado, presidente di Lega, ha espresso la sua posizione. Campionato a 16 squadre, così è e così rimarrà, con buona pace di tutti, compresa la nostra, perché è un format che ci piace. E poi, quanto ai controlli, ha spiegato quali sono di competenza della Lega e che chiederà di farne di più profondi presso le singole società. Su questo possiamo solo verificarlo. Riannodiamo un po' di, in futuro naturalmente, riannodiamo un po' di fili, salutando e ringraziando Luca Chiabotti, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Luca. Ciao a tutti. Luca Chiabotti, che ha visto Milano sbattere subito il naso sull'asfalto d'Europa, anche perché è un asfalto che più in salita non si può, peggio del CSKA in giro per l'Europa non puoi trovare, però una sconfitta che su una partita che è durata un pugno di minuti. Sì, neanche forse, questo è il problema, non è tanto perdere a Mosca col CSKA per una squadra che con molti debuttanti in Eurolega, quanto il fatto che Mosca ha amplificato dei problemi che si erano visti sia a Pesaro sia in casa contro la Virtus. Chiaramente se ci sono dei problemini, poi deflagrano una volta che vai contro i campioni d'Europa, e quindi diciamo che più che preoccuparsi per la sconfitta relativa, perché poi ci sono stati anche dei segnali comunque di tenuta abbastanza, e di coesione abbastanza buoni, è proprio il fatto che Milano deve adesso interrogarsi su un paio di scelte fatte che non stanno rispondendo alle aspettative. E tanto per non fare i nomi, sicuramente Hall, sicuramente con Joby Thomas e Papso in molto rimandati, ecco, mettiamola così. Infatti io ne avrei fatti tre di nomi e non soltanto due, sono quei tre che hai fatto tu. Ma quindi pensi anche che queste carenze dal punto di vista del rendimento di questi tre giocatori, che comunque dovrebbero essere tre giocatori chiave, abbiano, come dicevi prima, amplificato quella che è stata una debacle totale, insomma? Assolutamente. È chiaro che la storia insegna, ma anche recentissimamente per quello che è successo, non so, Diner l'anno scorso, che in campionato a Capodorlando faceva 18 punti di media, è andato in Eurolega e sembrava che non riuscisse a stare neanche in campo. Non si tratta di qualità di giocatori assolute, si tratta di esperienza, capacità, abitudine, mentalità, capacità di calarsi in un certo tipo di realtà. E quindi sicuramente, se Thomas è il classico tiratore che ha sbagliato 19 dei primi 20 tiri con la maglia dell'Armani, e quindi chiaramente qualche problemino in testa se l'è fatto venire, però come è venuto può anche passare, perché poi i tiratori sono così, magari si sblocca la prossima partita e poi comincia a giocare. Per quello che riguarda Hall è proprio un problema anche di cose che sa fare che possano meno servire alla squadra, e su questo ci sono alcuni punti interrogativi. Anche lì non va ricordato che quel posto doveva essere di Jumaine Jones, giocatore enormemente più forte e più adatto alla squadra, poi è andata come è andata. Papso ha fatto un po' di Euroleague l'anno scorso in Polonia, però, tanto cielo, rispetto ai centri anche come l'Orbeck, che in questo momento Messina tratta maluccio, diciamo, perché non è ancora quello che lui si aspetta, sembra essere un ragazzo della Unione. Allora certamente ci dovrà essere una crescita di tutti. Secondo me la cosa più grave è Hall, nel senso che sembra un giocatore che non serve, ecco. Però sono solo tre partite, la squadra mancava Vitali, che sembra una stupidata, ma non lo è, perché certo, è il giocatore più importante di quel progetto, e quindi anche quello che, tanto per non dire, ha vinto la partita a Pesaro con l'ultimo tiro. Certo. Quindi ci sono tante cose prima di tranciare dei giudizi o dare delle valutazioni, però ogni società di fronte a tre prove, l'indizio ormai deve cominciare a ragionare un po' su queste difficoltà. Certo che se fossero davvero tutti e tre degli indizi, nel senso che se tutti e tre questi giocatori fossero stati scelti e poi si rivelassero non particolarmente adatti, allora è chiaro che le mosse diventerebbero anche più difficili. Quello che io non continuo a non riuscire a spiegarmi è la scelta di Hall, sinceramente. Ma sai, visto così nessuno se lo può spiegare. Perché è un giocatore con una dimensione solo esterna e neanche con un grande tiro. L'unica cosa che ha, quando è carico, ha una grande energia, mette una grande energia rimbalzo, è uno che si sbatte e va bene, quindi non è un lazzarone. Su questo non ci sono dubbi. Chiaro che ci vorrebbe una presenza maggiore, e anche per aprire un po' di più, cioè creare un po' di spazio in area, sia per se stessi sia per farci giocare Mason Rocca, che ha avuto anche lui dei grandi problemi in questo inizio di stagione, perché è pur sempre un centro che raggiunge i due metri, perché gli facciamo raggiungere barando sulle statistiche coi tacchi, e però l'impatto è stato veramente duro, ma anche in campionato penso che abbia preso 4-5 stoppate nelle prime due partite, ecco. Sì, nel complesso, Luca, alla luce di una settimana più in scuro che in chiaro, nettamente più in scuro che in chiaro e non in chiaro scuro, la speranza è di non ritrovarci come l'anno scorso con, dopo 5 partite di Eurolega, due squadre già fuori e la terza più fuori che dentro, insomma, al di là di Siena, insomma. Ma guarda, su questo io sono abbastanza fiducioso, nel senso che Roma purtroppo è la classica squadra anche lì fortissima, secondo me l'aveva dimostrato pochi giorni prima a Bologna, quindi è una squadra che ha tutte le qualità per andare molto bene in Europa, che però prima di avere una mentalità europea è inutile, ci vogliono anni, ci vogliono un certo tipo di giocatori e questa va costruita, ma è una buona squadra e credo che dopo aver fatto quella fesseria contro una modestissima da Berlino saprà riprendersi. Non sono tutte il CSKA le squadre, per cui Milano affronterà squadre anche molto forti come Efes e Real Madrid, ma anche squadre modeste come Partizan e Panionios. Da Montepaschi, secondo me, è una di quelle che può tentare di puntare ancora alle Final Four. Avellino farà quello che può, ma non è su Avellino che uno deve misurare, certo, le proprie speranze europee. Quindi secondo me non sarà così, a meno che, come è accaduto in altre occasioni, poi l'Eurolega non diventi, da momento di grande esaltazione, dell'oh che bello andiamo a sfidare il meglio di Europa, a oddio siamo stanchi, abbiamo perso ancora e quindi diventi un'angoscia. Francamente è presto per dirlo, non credo, non sarebbe neanche giusto, però di certo l'unica squadra che ha veramente una caratura europea, pur con dei problemini che sta dimostrando, più di quanto uno si potesse aspettare, è Siena. Sì. Ecco, per chiudere, Luca, visto che abbiamo parlato di tutte, abbiamo semplicemente toccato Avellino che comunque nella sua prima contro una squadrone contro l'Olympiacos non ha poi così demeritato, nel senso, è una vittoria che da un certo punto di vista è una sconfitta che può anche essere vista da un certo punto, da una certa angolazione, come una vittoria per quello che è successo in campo. Ma guarda, secondo me Avellino è un'ottima squadra, l'hanno fatta praticamente la settimana scorsa, perché per una serie di motivi aveva, perché Diner e Prest sono arrivati praticamente a campionato che stava cominciando, Markowski non è un allenatore facile dove entra in sintonia, Slay è fortunato e quindi ieri ha fatto una comparsata, ma è un altro giocatore molto forte. Avellino è un'ottima squadra, credo che in casa, se appunto la gente continuerà a manifestare l'entusiasmo di questa novità e del fatto di avere un palazzo finalmente degno di questo nome, molto bello, accogliente, moderno, la seguirà, farà delle cose buone. Chiaro che ci vorrà tempo e sono state poche le squadre. Cioè, ecco, per una debuttante in Europa andare avanti ci vuole anche molta fortuna. Non è soltanto merito o demerito. Bisogna vincere le partite giuste, entrare in un treno, come si dice nel ciclismo, di volata giusta, però sicuramente il suo l'ha fatto e credo che continuerà a farlo, soprattutto in campionato. Grazie Luca, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie Luca Chiabotti, parlavi di Avellino, Flavio, e di squadra costruita la settimana scorsa, ieri sera giocava contro l'Olympiacos, nessuno in questa stagione ha speso quanto l'Olympiacos, sotto il naso la cifra dell'ingaggio di Childress. 4 milioni e mezzo di euro. Ci fanno tre squadre ad Avellino. Avellino ha un budget totale di 4 milioni. Ecco. Quindi questo è quanto. 4 milioni e mezzo di euro l'anno per Childress, 4 milioni per tutta la squadra ad Avellino. E alla fine in partita per 32 minuti. Palla spicchi. Sono già in linea il nostro prossimo ospite, già precedentemente annunciato, e un paio di domande anche un po' criptiche per me, sì, per esatto, il coach della Real, però ci sono anche altri messaggi. Sì, cominciamo da quella da quello un po' meno criptico. Sono appassionato di serie minori, complimenti ad Almasson, l'anno scorso ho apprezzato assai l'umiltà di Rombaldoni e Farioli, o Rombaldoni un argento olimpico e Farioli, questo scrive Pier da Bologna. Allora la giriamo subito salutando una coach, Eugenio Dalmasson, che ha riportato nel paradiso, nella pallacanestro che conta, quella con la Serie A davanti, la Real Venezia. Buon pomeriggio coach. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Allora, rispondiamo subito a questo ascoltatore che è di Bologna, che Pier da Bologna, sono appunto, l'ha letto Flavio, le fa i complimenti e scrive che ha apprezzato assai l'umiltà l'anno scorso di Rombaldoni, Argento Olimpico e di Farioli. Sì, Rombaldoni nel scegliere il nostro progetto ha avuto il coraggio, la forza che molti giocatori tante volte non hanno di rimettersi in gioco. Usciva, anche se non da protagonista, da uno scudetto vinto a Siena, e quindi aveva avuto e avrebbe avuto sicuramente altre chance, quantomeno in Lega 2. Invece lui, per tornare a essere protagonista, ha fatto la scelta di venire e scendere in B1 in un progetto ambizioso, ma comunque di qualche categoria inferiore. E lui in questo, secondo me, gli va riconosciuto, si sta ricostruendo come giocatore importante, sta ritrovando la soddisfazione di giocare da protagonista ed è sicuramente il nostro leader indiscusso. Coach, noi come saprà abbiamo come ospite fisso del nostro programma un vostro consulente, no? Tale Dan Peterson, con cui apriamo ogni venerdì il programma. Parlavamo prima delle radici del progetto di Venezia, radici che affondano nella laguna e che sembrano essere molto profonde, molto solide, ma quanto? Cioè l'obiettivo finale di questo progetto Reier qual è? Ma è un progetto sicuramente ambizioso, che ha saputo sin dall'inizio, sin dai suoi primi passi, di sconfiggere quello che era il vecchio tabù legato alla distanza del ponte fra Mestre e Venezia. Ha riunito due città che hanno grande tradizione, grande storia, perché oltre alla Reier, che è sicuramente un emblema storico della nostra pallacanestro, però anche Mestre ha avuto per tanti anni una pallacanestro di grande tradizione, soprattutto a livello giovanile. E adesso non si parla più in città di Mestre o Venezia, la Reier ha riunito due città sotto un'unica bandiera, e oltre a questo c'è un grande interesse anche nei centri limitrofi. Il progetto del presidente Brugnaro è proprio quello, quando parla sempre di città metropolitana, no? Di avere una grande squadra che possa abbracciare un territorio molto vasto, che quindi non va a identificarsi nella sola città di Venezia o di Mestre, ma in un grande territorio, e credo che questo stia muovendo i primi passi in modo molto ambizioso, e credo che la destinazione finale sia l'arrivo finale, sia proprio quello di arrivare alla A1. Sicuramente per fare questo ci sarà bisogno di strutture nuove, c'è un ambizioso progetto di una costruzione di un palazzetto da 15.000 posti, e quindi ci sono tante situazioni che stanno evolvendosi di giorno in giorno, ma credo che questo progetto alla fine arriverà a destinazione, ne sono sicuro, perché la determinazione e la voglia del nostro presidente è sicuramente fuori discussione. Quindi credo che la Reier farà di tutto per tornare ai vecchi fasti, anzi magari per andare a fare cose che neanche nella storia è riuscita a fare. Com'è stato il vostro impatto con la categoria? A livello di americani avete scelto due giocatori che già avevano assaggiato e come assaggiato il nostro campionato, come Nate Green e Otis George, quindi diciamo si può dire un po' l'usato sicuro di qualità, insomma. Ma super, super. Sì, effettivamente la scelta è stata questa. Pensate che due giorni dopo la promozione ottenuta sul campo di Brindisi avevamo già individuato i nostri obiettivi, avevamo già cominciato a fare le prime telefonate nel giro di qualche giorno. Infatti, se vi ricordate, siamo stati la prima squadra a prendere Green, se non mi ricordo male. Esatto, a completare il roster. Con Green abbiamo raggiunto l'accordo subito, con Otis George è stato un po' più pelino più complicato, però a distanza di qualche giorno, proprio perché come scelta volevamo fare i primi passi nella nuova serie affidandoci a degli americani che ci dessero solidità, che fossero già abituati a vivere in Italia, a conoscenza del nostro campionato, e credo a oggi sia una scelta sicuramente importante, però ripeto che va interpretata proprio per il fatto di cercare di non correre rischi in questo primo anno, certo, del campionato di Serie A. Da matricola d'altri tempi, se mi permette il termine, quando si saliva dalla B alla A e si prendevano due americani collaudati, magari mantenendo gran parte dell'ossatura della squadra dell'anno prima. Bravissimo, infatti proprio abbiamo fatto cose d'altri tempi in questo senso, siamo molto innovativi e sperimentiamo cose nuove in tante altre, in questo senso abbiamo fatto cose che appunto tanti avevano fatto negli anni passati, proprio perché abbiamo voluto dar fiducia in grossa parte al nucleo di giocatori che aveva portato la promozione, affidandoci oltre a Green e a George, come ricordato anche a Bugajev, che è un altro giocatore da comunitario che milita ormai nei nostri campionati da tanti anni. Quindi... Coach, ho anche un messaggio un po' criptico invece. Prima l'ho letto quello più manifesto. Questo è di Luca, che è di Mestre, tifoso reierino, a riprova di quanto lei diceva prima, e vorrebbe chiederle che cosa le ha detto veramente il suo presidente Brugnaro l'anno scorso nel lunedì, martedì successivo alla sconfitta con Casal Pusterlengo. Per me è arabo, però magari lei mi chiarisce. Ma guarda, il presidente tante volte è molto più prodigo di parole dopo una vittoria, che dopo una sconfitta difficilmente riesce a parlare o a fare, perché appunto vive la partita in modo molto molto forte. Però ecco, sicuramente l'anno scorso abbiamo vissuto un momento molto difficile, abbiamo all'inizio del campionato con 5 sconfitte consecutive, però anche lì gli va dato merito al presidente, invece di fare quello che generalmente si fa, cioè cacciare l'allenatore, ha avuto fiducia e abbiamo cambiato un giocatore, e su quello siamo riusciti poi a trovare il giusto passo, il giusto ritmo per fare un campionato ambizioso, riuscendo poi a portare a termine con il 2-0, vincendo anche a Brindisi nella finale per lo scudetto di Serie B. Quindi è chiaro che il nostro presidente, ripeto, ci crede molto in questo progetto, ci sta investendo molto di suo, oltre che come immagine anche in termini economici, e quindi è chiaro che è esigente, è un presidente che ha che cura molto di prima persona tutte le cose. Però ripeto, io sono il terzo anno che lavoro con lui e posso dire di aver sempre lavorato in piena autonomia nelle scelte tecniche, e ripeto, quindi sono straordinariamente soddisfatto di poter essere un suo collaboratore, di poter essere dentro a questo progetto. Grazie coach, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie davvero a Eugenio Dalmasson, coach della Rayer Venezia, campionato peraltro di Lega 2, Flavio. Due vinte e una persa per adesso, quindi è assolutamente in linea di galleggiamento. Ricordiamo che ci sono in due testa squadre a punteggio pieno, solo soltanto due, esatto, quindi soltanto Iesi e Varese a punteggio pieno, e poi nel gruppetto a 4 punti, quindi con 2 vittorie e una sconfitta, la Rayer, che è stata sconfitta nella gara d'esordio a Reggio Emilia nella prima di campionato, poi 2 vittorie in fila. Adesso una partita che secondo me è interessantissima per il pubblico della Lega 2 contro Soresina, che è un'altra squadra sicuramente da vedere, perché gioca un'ottima pallacanestro. La battaglia alla Lega 2 è la maratona di New York, la Lega 2, perché equilibrio snervante addirittura. Torneremo naturalmente a parlarne tra 7 giorni in Palla Spicchi. Gli appuntamenti del weekend li conoscete: domani dalle 17 alle 18 dal rugby a tutto il resto, comincia anche lo sci tra l'altro, e poi domenica campionato di calcio dalle 17 alle 19, di nuovo il basket dopo il GR delle 20 per le ultimissime dai campi, e dalle 22 alle 23 di domenica sera. Vi ho fatto il riassunto, adesso i saluti. Grazie a Flavio Suardi, grazie a Gigi Borghi in redazione, a Fabio Cantadone in regia. Alla prossima.